chills. You're my truth and you're my bitch. Strong and aggressive. Now or never, start your fight. Scream, you down as you hide. Quarta e ultima parte di Rock Legends, continuiamo ad ascoltare i brani del disco dei Divines intitolato Kill Me Martina. Come si chiamava questa canzone? La canzone era Your Lies. Dopo questo disco, quali sono i nuovi obiettivi che attendono la vostra band per il futuro prossimo? Innanzitutto il primo obiettivo, quello principale, è quello di arrivare a più persone possibili coi live, in modo che possano ascoltare la nostra musica. Nel frattempo stiamo già lavorando per il prossimo album. Sì, è presto, però abbiamo iniziato subito e non vogliamo fermarci nella composizione. Uscirà anche questo con la Kill Me Records, che è la nostra etichetta che abbiamo aperto noi, e con lo quale è uscita anche Kill Me Martina. Ora è il momento di quale canzone? Ora è Juliet. Sì, Juliet. Yeah, I run from you. trying to hold your hand, not mine. Yeah, I run from you to the end. Can you hear me? When you realize there's no shelter from the rain, it will be too late, 'cause now the chance is gone. Even all this lies between, I fought to die for me. Tempo scorre, noi ragazzi siamo in chiusura di puntata, vi ricordo i contatti per le vostre segnalazioni, scrivete l'indirizzo email jeanluc76m@yahoo.it. Ricordo il sito www.radiorcs.it per info su Radio RCS e su Rock Legends, oltre che la possibilità di ascoltare la nostra radio anche in streaming. Un grazie di Vines per la partecipazione e un augurio di pronto ritorno in futuro per la presentazione di un altro CD. A voi la parola per i contatti web ed email per info sul vostro album ed un calendario di prossimi appuntamenti live. Allora, intanto volevamo ringraziare te, Jean-Luc, per la possibilità che ci hai dato stasera di essere qui. Per quanto riguarda i contatti, allora, come avevamo già detto, il nostro sito, il sito ufficiale è www.divines.it. Per quanto riguarda il MySpace, www.myspace.com/divines. E per quanto riguarda il disco, si trova in tutti i negozi, diciamo che la distribuzione è italiana, per cui dovrebbe trovarsi in qualsiasi negozio o i migliori negozi di musica. Se non riuscite a trovarlo, contattateci direttamente sul nostro sito, trovate lì tutti i contatti che ve lo spediamo. Per quanto riguarda le date live, stasera adesso stiamo per andare in provincia di Brescia, a Rovato, al cortocircuito, per cui se vi trovate in zona vi aspettiamo lì. Poi sabato prossimo, quindi il 15 maggio, siamo all'Olden Live Club di Lonato. E venerdì 28 maggio La Nave di Harlock a Brescia con i Sinestesia, sono una grand band. Il 29 siamo a Rocking Ghisalba a Bergamo assieme ai Gerson e ai Latte Più. Dopo passiamo a giugno, per cui il 12 giugno siamo a un motoraduno al Mad Piston di Acquanegra, mentre invece il 18 di giugno siamo al Black Rose di Acqua Fredda Brescia. Brano per chiudere questa puntata? Allora, il brano che presentiamo adesso è Drawing Electromad, e è il nostro singolo e speriamo che vi piaccia. È il nostro video. Godetevelo. Bella. Enjoy. Grazie RCS, grazie mille. E Jean-Luc e Divines vi salutano, noi ci risentiamo venerdì prossimo quando da Vicentino arriveranno i Cani, Hard Rock Band, che presenterà il nuovo disco Rockabist. Ciao! Rage, as you were young. not afraid. In my eyes I see your face. Your friend's a hero. Leaves no trace. Sooner or later winter we know. Sooner or later winter we know. But you want to lose, but you want to lose, but you want to lose the keys. But you want to lose, but you want to lose the keys. Sooner or later winter we know. Sooner or later winter we know. But you want to lose, but you want to lose, but you want to lose the keys. Sooner or later winter we know. Sooner or later winter we know. But you want to lose, but you want to lose, but you want to lose the keys. Drive.